Radio 24 presenta Il sabato del villaggio di Marta Cagnola. Le 15 in punto a Radio 24 ed è tutto pronto per il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è come sempre il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. Nella terza ora, dalle 17 alle 18, il consueto appuntamento con RadioTube, insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Come contattarci con tutti i mezzi a disposizione in questo nostro pomeriggio di diretta? Beh, c'è il numero. Per i vostri SMS, ma anche per i vostri messaggi WhatsApp, 349-238-6666, 349-238-6666. Ma mi potete contattare anche attraverso il mio account di Twitter, @ Marta Cagnola. Ma ora scopriamo i temi della prima ora che passeremo insieme. Qual è il filo conduttore? Le sere d'estate. Che meraviglia le sere d'estate. Beh, allora, l'appuntamento con il gastronauta per parlare di terrazze, di cene all'aperto e di anguria o di cocomero, come preferite, di notte. Il nostro Enrico Pagliarini ci aggiorna su un amico dell'estate, tutte le novità tecnologiche che riguardano i condizionatori, e ce ne sono di novità davvero divertenti. Ma prima parliamo di musica. We go down to the river, and into the river we die. Went down to the river, then into the river we died. The River, un album fantastico, un pezzo fantastico e anche un grande tour che sta facendo tappa in Italia. Bruce Springsteen, uno degli artisti più attesi di questo periodo, di quest'estate 2016, piena di concerti bellissimi. Io posso dire, io c'ero, ma c'era anche il nostro ospite, il critico musicale del giornale, Paolo Giordano. Ciao Paolo, bentornato al Sabato del Villaggio. Eccomi, ciao, sai che da voi mi sento sempre a casa, quindi cioè, se mi metti una canzone così io veramente mi esalto. Ma perché non sei qua in studio, se no potevamo ballare, esatto. Potevamo farci un lento con Boss. L'abbiamo fatto l'altra sera, bisogna dire la verità. Io sì, infatti ho visto, ci siamo tutti molto scatenati, sì. No, su The River non tanto, sui grandi classici, sì. di Bruce Springsteen parecchio. Sì. Due date già passate a Milano, manca ancora quella di Roma, credo che sarà una data bellissima. Ma sarà una data bellissima, come bisogna dire oggettivamente. Io ho visto il concerto del 3 luglio a San Siro e così mi hanno riportato anche per quanto riguarda il 5, cioè due giorni dopo. Quando vedi un rockettaro di quasi 67 anni che canta e suona e balla per 4 ore a 30 gradi e tutto lo stadio balla con lui, sono 60.000 persone, alla fine cosa puoi dire? È stato uno spettacolo entusiasmante. Ho un po' discusso con i nostri colleghi che hanno detto forse questo concerto non è bello come quello del 2013. Vabbè, però posso dire che è sempre così con alcuni personaggi. Esatto. Però quella data che ha fatto a Bologna nel 2004 è stata sempre così. Ma dai, coi critici. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, siamo nell'epoca di pop star o anche rock star e macciati che dopo un'ora e mezza svengono sul palco. Stiamo parlando di uno che ha, insomma, dopo 4 ore saltava più di me. Cioè, insomma, è veramente l'apoteosi del rock della vera America, cioè quello molto venato di folk, molto ben suonato tra l'altro, e con una voce che insomma tutti riconosciamo. È vero, durante Born to Run, che è stato insomma molto applaudito, e soprattutto durante gli ultimi pezzi, lui non aveva la voce più, diciamo, cristallina che aveva all'inizio. Però stiamo parlando di un concerto rock, e il concerto rock è empatia, non è stare lì a valutare con il bilancino come è stata la singola performance. E io lo promuovo adesso molto più di 10 anni fa o 20 anni fa. Sono d'accordo con te, tra l'altro uno dei tour con maggiore vendita dei biglietti negli ultimi anni, 3 date, ne abbiamo parlato poco prima della tappa di Milano del 3 di luglio con l'organizzatore Claudio Trotta, che è anche un grande amico del boss. Sentiamo cosa ci ha raccontato Claudio Trotta. Questo tour sarà quello con il più alto numero di partecipanti nella storia dei tour di Bruce Springsteen. Penso che raggiungeremo i 180.000 presenti nei 3 concerti, con circa 120.000 nei 2 concerti a Milano e 60.000 in quello a Roma. Un pubblico che si rinnova, e in particolare un pubblico italiano che ama particolarmente Bruce Springsteen. Sì, è un pubblico innanzitutto che arriva da tutto il mondo, perché di questi 180.000 io penso che 15-20.000 arrivano dall'estero. È un pubblico di tutte le età, perché ci sono sessantenni, cinquantenni, settantenni, ma anche diciassettenni, quindicenni, bambini, trentenni, quarantenni. È quindi un pubblico, e questo è specifico dell'Europa, perché negli Stati Uniti non ha questo tipo di pubblico, forse per questo che l'ama anche così tanto, che oggettivamente cresce con lui, ma allo stesso tempo ha un grande ricambio. Quindi è bellissimo parlare con questi ragazzi di 17 anni che sono magari al primo concerto di Bruce Springsteen, oppure parlare con delle persone coetanee mie, oppure quarantenni che ne hanno visti 50, 60, 80, 100. C'è lo stesso entusiasmo, la stessa passione. Allora, questa bimba che canta ha 4 anni, e per chi fosse mai stato a un concerto di Bruce Springsteen si sa che ci sono alcune cose: quelli che gli danno i cartelli e lui legge i cartelli, mostra i cartelli, prende i cartelli, e poi prende sempre qualcuno dal pubblico per ballare. Non so se vi ricordate quel vecchissimo video di Dancing in the Dark in cui prendeva Courtney Cox. A Oslo ha preso una bimba di 4 anni, e se vedete il video su YouTube è veramente da commuoversi, proprio da piangere come fontane, perché questa bimba sa tutta la canzone e lui impazzisce perché non ci può credere che questa bimba se la sappia così bene. L'hai visto, Paolo? Si commuove pure lui, si commuove pure lui. Che uomo, ragazzi, che uomo. Paolo, secondo te quali sono i concerti da non perdere in questo periodo? Adesso ad esempio arrivano delle signorine molto affascinanti e molto belle a Milano, credo, insomma, da Beyoncé, Rihanna, insomma ce ne sono di concerti da non perdere in questo periodo. Secondo te cosa c'è da vedere, Paolo? Io credo che Rihanna sia da vedere allo stadio, non tanto nella data precedente, cioè 2 giorni prima, a Torino, perché lì è chiuso. Rihanna a San Siro credo possa essere una sfida, perché non c'è mai stata, e perché io la vedo, vado col concerto con il fiato sospeso, perché io Rihanna in uno stadio da 60.000 onestamente non la vedo così a proprio agio. Beyoncé invece è una macchina da guerra, quindi dovunque la metti riempie, spacca, come dicono i rapper, non c'è nessun tipo di problema. Io penso che il concerto di Beyoncé a San Siro sarà, anche se saranno 50 gradi, anche se nevica, anche se scappa la gente, cioè lei è implacabile, quindi sarà convincente, e quel repertorio è un repertorio che si può ballare, quindi è qualcosa che potrebbe trasformare lo stadio di San Siro realmente in una specie di lounge, molto mega lounge, diciamo così. Poi ci sono in giro per l'estate tantissimi concerti, ci sono tour piccoli, grandi, ci sono mega eventi come 10 date consecutive a fine estate di Zucchero, di Zucchero all'Arena di Verona. Ci sono altri eventi di nostri cantanti, ma c'è una cosa, Marta, che io credo di poter consigliare a scatola chiusa, perché non l'ho vista, ma ho parlato con chi farà il concerto, e cioè il concerto di Aznavour all'Arena di Verona. 14 settembre, vero? No, perché io l'ho già segnato, ho già fatto la richiesta a turni, ecco, a Radio 24, ecco, non mettetemi in turno il 14, intendi, perché devo andare a Verona. Tu ti intendi di musica e quindi sai che Aznavour, mai andato all'Arena di Verona, a 92 anni, nel mezzo di un tour mondiale, è una cosa che, come sopra, come Springsteen, no? Cioè che suona quattro... Nel mezzo di un tour mondiale va a cantare all'Arena di Verona per la prima volta nella sua vita, e l'altro giorno, quando ce ne parlava, lo ha fatto con l'entusiasmo candido di un debuttante. In realtà è uno che nel 1946 Edith Piaf lo consigliò, cioè lo incoraggiò a fare quel mestiere, che aveva iniziato la carriera artistica nel 1933. Sono veramente impressionante pensarci, cioè se ci si concentra sulle date è veramente incredibile. Cioè nel 1933 Aznavour, che sarà all'Arena di Verona, ha iniziato come ragazzino, bambino, sul palco di un teatro, perché i suoi genitori lo portavano a teatro, e quindi ha iniziato a fare danza classica. Però, per dire, è una carriera che è da 83 anni che lo porta in giro, ed è qualcosa di meraviglioso. Io, quando gli abbiamo parlato, ho pensato che lui è il più rock di tutti, perché si è presentato all'appuntamento con i giornalisti vestito, diciamo, non alla moda, anzi, ma vestito con il suo stile, puntualissimo, ha risposto professionalmente a tutte le domande e poi ha fatto la solita seduta di autografi, foto, battute a margine. Se pensiamo, e tu lo sai, a tanti nuovi artisti arrivati che magari hanno avuto un pezzo per 3 mesi in classifica e fanno le interviste e scappano perché hanno da fare, o sono arrivati settimi a un talent e si sentono questo, troppo impegnati, e poi no, non posso, no, il selfie, no, beh, magari dopo, cioè sono cose, adesso non voglio fare lo snob, perché non lo sono, ma sono cose che danno la misura e dovrebbero dare la misura. Se uno va avanti e fa una carriera di 80 anni o di 50 anni come Springsteen, lo fai perché sei così. Sì, devo dire, effettivamente questi grandi vecchi, e lo dico con affetto, totale rispetto, sono veramente impressionanti, sono personaggi e persone straordinarie. Senti, visto che stiamo parlando di non giovanissimi, tu hai twittato poche ore fa qualcosa sugli AC/DC, che so che, insomma, ne abbiamo parlato anche in radio qualche volta insieme, degli AC/DC. Mi sa che è proprio conclusa la storia del gruppo. Perché nel momento in cui Cliff Williams, che è il bassista, annuncia che a fine tour lascerà la band per sempre, e quindi non solo non farà concerti, ma farà neppure dischi, è la conferma che nella band dei membri originali è rimasto soltanto Angus Young, che comunque è un'icona, è alla quale tutti noi vogliamo bene. Il mio primo concerto è stato nell'84 allo Stadio Comunale di Torino, proprio AC/DC con i Motley Crue. Però adesso devo dire che probabilmente la storia di questa band, che ha venduto 200 milioni di dischi, è comunque, credo, al capolinea, ecco. Accidenti, ne avevamo proprio parlato in uno dei nostri appuntamenti col Sabato del Villaggio, degli AC/DC. Poi ho letto questo tweet, appunto, che hai fatto ieri sera, ho detto accidenti, bisogna proprio dire che chi ha avuto la fortuna di vedere l'ultimo concerto forse è stata a Imola, forse è stata... Tra l'altro, guarda, quasi non per fare una carambata, ma l'ultimo concerto a Imola l'ha organizzato la stessa persona che ha organizzato Springsteen. È vero, che abbiamo sentito prima, il grandissimo, esatto, Claudio Trotta, che notizia. Che nella seconda data di Bruce Springsteen si è trasformato in barelliere, è salito sul palco perché hanno finto di portare via con una barella Bruce Springsteen. Vabbè, li trovate tutti i video in rete perché sono stati irresistibili. Molto molto contenta di avere ospitato anche questa volta uno degli amici più cari del Sabato del Villaggio, che è il critico musicale del giornale

Sì, ci sono, buon pomeriggio. No, oggi tutto a posto, siamo in una niente zona dove frecce c'è poca tricolori. Gente. Niente frecce tricolori, sì, perché l'altra volta eravamo collegati da un air show e c'era tantissima gente, il collegamento non era facilissimo, ma noi non ci fermiamo davanti a niente. Ci siamo collegati lo stesso, però avevamo lasciato un argomento in sospeso, perché ci avevi spiegato dell'esistenza di un gruppo particolare di appassionati. Di cosa si tratta, Enrico? Allora, parlavamo di passioni, e allora parlando di passioni, una passione forse non molto conosciuta, ma ci sono migliaia di persone che sono così appassionate di aeroplani che vanno o agli air show, come appunto la settimana scorsa, ma direi che quasi ogni settimana, ogni 15 giorni d'estate, anche in Italia ci sono appuntamenti per vedere degli aerei, spesso aerei acrobatici, aerei militari, aerei caccia o aerei anche d'epoca, ma dicevo, ci sono molti appassionati che vanno negli aeroporti, ma non nella stazione aeroportuale, ma vanno in testa o in coda o ai bordi delle piste per vedere atterrare e decollare gli aeroplani. Ma non solo. Fanno anche un sacco di fotografie, ci sono poi siti internet che raccolgono queste fotografie, che sono fotografie di aeroplani, quindi se uno è appassionato di aeroplani apprezza, se uno non è interessato agli aeroplani apprezzerà un po' meno, ma ci sono questi gruppi che si chiamano spotters, che sono proprio dei gruppi organizzati informalmente o a volte anche formalmente, che sono molto seguiti anche su Twitter. Ad esempio io seguo alcuni gruppi di spotter su Twitter per sapere che cosa succede negli aeroporti, e uno si domanderà, ma che cosa ci sarà di tanto interessante negli aeroporti? Allora lo vogliamo chiedere a Stefano Macchi, che è uno degli spotters del gruppo Malpensa Spotters. Benvenuto Stefano. Grazie. Allora Stefano, ce lo diceva Enrico, voi fate questa cosa, cosa c'è di interessante nell'andare a vedere e fotografare gli aerei? Questo fate? Ma diciamo che più che altro è una passione che noi condividiamo tutti quanti insieme, già solamente il trovarsi ed essere più persone che fanno la stessa cosa è bello di suo. Verissimo. Poi ci sono persone che hanno anche una passione per l'aviazione, persone che invece sono appassionate di fotografia, e queste due passioni vengono unite e in quel momento lì ci si concentra su quello, si passano delle ore di, diciamo, di spensieratezza. Enrico, poi è bello questo concetto del trovarsi intanto, e poi esatto. Mi stupisco che Enrico Pagliarini non si sia ancora dato a questo perché è allora, molto appassionato di aerei. Io ogni tanto vado, ecco, non mi presento, non dico, che anche perché non conosco nessuno in questi gruppi. Devo dire che ringrazio anche Malpensa Spotters su Twitter per informarci di quello che succede, perché appunto prima dicevo che cosa ci sarà di tanto interessante. Allora ci sono effettivamente degli aeroplani molto interessanti che si vedono raramente. Ad esempio io sto aspettando da tempo di avere il tempo per andare a vedere l'aereo più grande del mondo, che è un Antonov, cioè un unico esemplare. Sicuramente Stefano Macchi ne sa molto di più di me, l'avrà anche immagino fotografato. Tutte le volte che è venuto a Malpensa non sono riuscito ad andare per motivi di tempo. Però prima di farmi dire magari qualcosa su le rarità che arrivano negli aeroporti, Stefano, tu hai anche un cognome molto noto nel mondo dell'aviazione, perché molti dei nostri ascoltatori ricorderanno la Air Macchi, che venne fondata agli inizi nel 1913. Non so se tu sei un discendente, Stefano. No, purtroppo no. Però però un destino nel nome, Esatto. Sì. Ecco, ma quali sono le rarità che arrivano negli aeroporti, a parte questo Antonov meraviglioso, gigantesco? Ma diciamo che sono all'ordine del giorno, non sempre riguardano aerei che magari si vedono una volta ogni 8 anni, come ad esempio può essere l'Antonov, però ci sono molti aerei che hanno livree speciali oppure scritte particolari, oppure aerei che vengono dipinti per un tempo limitato, e allora costituiscono una rarità. Noi nel limite del possibile cerchiamo sempre di informare tutti quanti tramite sia la pagina Twitter e il nostro forum dell'arrivo di questi aerei, e poi ci si trova tutti quanti e si fotografa. Ci racconti che cosa fate, cioè qual è la vostra attività, perché diciamo è una passione informale, ma è un'attività, voi andate, fate le fotografie, so che ci sono anche dei libri con tutti i numeri di matricola degli aeroplani per sapere che quell'aereo magari Spiegaci un po'. No, diciamo che la nostra è più una missione di diffusione della cultura aeronautica in tutte le sue forme. Lo facciamo praticamente solamente attraverso la fotografia, però abbiamo, diciamo, altri modi di farlo. Ad esempio, tante volte quando arriva un aereo particolare, una livrea particolare, raccontiamo anche la storia di quella compagnia, di quella livrea o di quell'aereo. Altre volte invece ci limitiamo solamente alla fotografia, che è già interessante di per sé stessa. Tu mi parlavi sì dei libri con le matricole. Noi diciamo che non facciamo queste cose qui, ovvero non ci limitiamo solamente a guardare l'aereo e segnare la matricola. Per noi l'importanza risiede proprio nell'aereo stesso. Cioè, scherzosamente, noi quelli che guardano gli aerei e si segnano tutte le matricole li chiamiamo mangia matricole, perché loro... Perché ci sono anche questi, giusto? Sì, perché è come se li riconoscessero per nome uno a uno. Cioè, sì, sanno esatto, loro praticamente è come se incontrassero delle persone e si segnassero sulla loro rubrica i numeri di queste persone. Ragazzi, stanno arrivando dei messaggi di appassionati, perché Walter ci scrive via SMS al 349-238-6666, grande il Paglia, perché ormai sappiamo che Enrico Pagliarini, qua lo chiamo il Paglia, quindi anche gli ascoltatori lo chiamano il Paglia, che parla di Plane Spotters, abbiamo la stessa passione per gli aerei. E poi c'è via WhatsApp un ascoltatore che ha come immagine di profilo lui che guarda le frecce tricolori e scrive Antonov AN-225 MRIA Sogno. Sì. Ah, è un pilota di linea che ci scrive. Ha un peso utile pagante quasi come un Boeing 747 a pieno carico. Quindi grosso è grosso, ci dice il nostro ascoltatore. Sì, è più grande. Stefano ci può dire qualche cosa di più, lui che l'ha visto. Sì, diciamo che è un aereo molto particolare. Vabbè, innanzitutto colpisce perché ha 6 motori e praticamente sono pochissimi gli aerei che hanno più di 4 motori. Più che altro poi all'interno è veramente enorme ed è questa la sua peculiarità. Il fatto che non è che sia un aereo che sia, sì, è il più grande del mondo parlando di aerei da carico, però la sua peculiarità sta nel fatto che tutto il carico che può essere immagazzinato al suo interno è lineare e quindi permette di portare carichi che nessun altro aereo al mondo potrebbe trasportare. A proposito di questa cosa qui, qualche anno fa è stata effettuata anche una mostra all'interno dell'Antonov stesso, in quanto essendo enorme praticamente sono stati appesi tutti i quadri sulle sue pareti. Ed inoltre è un straordinario. Esatto, è uno degli unici aerei che ha ben 2 carroponti al suo interno e quindi può movimentare i carichi autonomamente, senza bisogno di gru esterne. Sì, poi un'altra caratteristica di questo aereo, che è un unico esemplare, perché la costruzione, c'è tutta una lunga storia, è stata travolta da tutti i cambiamenti dell'est europeo legati all'Unione Sovietica, venne fatto perché è stato prodotto in Ucraina ed è un unico esemplare. Quindi quando questo uscirà dal servizio qualcuno si domanderà quale sarà poi l'aereo più grande del mondo in fatto di trasporti. Perché Intanto si stanno scatenando gli appassionati, perché Paolo ci scrive: no, l'aereo più grande è l'Airbus A300-600ST Beluga. Ragazzi, io non ne so niente. Cioè, sì, ma quello viene utilizzato solo per se voi mi parlaste di borse sarei più preparata sul non entriamo in questo dibattito. Esatto. No, volevo sapere anche da Stefano dove finiscono le fotografie. No, le fotografie noi le mettiamo chiaramente sulla pagina Facebook che gestiamo in un gruppetto di persone, vanno a finire sul nostro forum dove ci sia anche un momento di confronto, quindi consigli su come migliorare piuttosto che consigli su come mettersi in base all'ora del giorno, e poi vanno anche sui vari Instagram, Twitter, dove tutti gli appassionati possono chiedere consigli o informazioni o quant'altro. Beh, che bello, un hobby sano, carino. Poi è un hobby che permette anche di sognare. C'è un ascoltatore che ci scrive: io invece sono steso a prendere il sole, ora guardo il cielo, sono collegato con Flight Radar e vedo aerei che passano sopra me, dove vanno, e sogno viaggi. È bellissimo. Sì, è un divertimento anche quello. È bellissimo, sì. È bellissimo. Noi adesso abbiamo una pausa. Volevo salutare Stefano Macchi, segnalare il vostro gruppo di Facebook Malpensa Spotters Group, anche perché mi piace molto come hobby. Da piccola mio papà mi portava vicino alle reti degli aeroporti per vedere gli aerei che decollavano, atterravano. Questa è un'evoluzione molto interessante di questa cosa molto carina che fanno spesso i papà con i bambini. Allora, vi si può contattare via Facebook, Stefano? Sì, via Facebook, abbiamo anche un sito che si intitola malpensaspotters.it. Noi per qualsiasi cosa siamo sempre disponibili a rispondere, anche consigli su come venire a far foto, su dove mettersi, soprattutto per, in un periodo come questo, per non incorrere poi in problemi con la polizia. Certo, che sia una cosa assolutamente nei limiti della legalità, esatto, questo è sempre la premessa. Grazie, sì. Grazie a Stefano Macchi. Figuriamoci, ciao, buon pomeriggio a tutti. E buoni avvistamenti. Il pilota che ci scriveva prima dice: io come pilota ho molte foto di aerei che pilotavo quel giorno, quindi grazie agli spotters. Beh, certo, il pilota giusto, è vero, bravissimo. Bello, anche vero, per i piloti. Poi uno va sul sito e dà la livrea, dall'orario, dal numero di matricola, dice: quello lo pilotavo io. Oppure potrebbe valere anche per chi era a bordo dell'aeroplano. Enrico, sono le 15:46, sì, facciamo la pausa, sì, per la viabilità, e poi tanto saremo insieme fino al giornale radio delle 16, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. Viabilità. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Il sabato del villaggio. E rieccoci ancora insieme, il pilota si chiama Eugenio, grazie per i tuoi messaggi Eugenio. E poi c'è un'ascoltatrice che ci scrive via WhatsApp al 349-238-6666: quando vi ascolto mi scatta la curiosità, siamo qui apposta, anche a me scattano le curiosità, quindi chiedo, perché appunto scopro sempre cose nuove. Io non conoscevo questi gruppi di spotters, mi sembra un hobby molto carino, appunto fatto con tutti i crismi della legalità possibile, molto così, un bel modo per stare insieme. Enrico, però io ti ho interrotto, abbiamo ancora in collegamento Enrico Pagliarini, che aveva ancora una cosa da dirci su questo, sì, su questo aspetto. Volevo dire che noi abbiamo parlato, abbiamo avuto Stefano Macchi dei Malpensa Spotters, ma in tutti gli aeroporti, grandi sicuramente, ma anche nei medi aeroporti ci sono gruppi di spotters. Ovviamente nei piccolini è molto raro ed è difficile, anche perché se un aeroporto ha una movimentazione di aerei una volta all'ora è un po'... non è molto divertente andare lì a aspettare un'ora per vedere un aeroplano, magari anche un aeroplano di modeste dimensioni, abbastanza piccolino. Però, quindi, se uno è appassionato può mettersi in contatto con il gruppo di spotters più vicino a dove abita. Certo. Insomma, ci sono aeroporti di medie e grandi dimensioni un po' in tutta Italia, insomma in ogni regione, quindi può essere divertente. Oppure uno va anche a fare una passeggiata un sabato pomeriggio e si guarda qualche aeroplano. Insomma, è anche divertente. Poi dicevamo prima che i bambini si divertono, quindi è uno spettacolo gratuito. E pensavo prima a questi 7 chilometri di coda che ci sono sull'autostrada. Non so che cosa è più divertente, stare in coda per 7 chilometri, magari la coda si risolve in 2 ore, piuttosto che stare invece di fronte alla pista a vedere gli aeroplani. Certo che non è fresco in questo periodo, però allora, il divertimento è assicurato. Barbie scrive: anch'io passavo i pomeriggi col nonno ai bordi pista per vedere gli aerei partire o arrivare, militari o civili. Ci facevamo il picnic a chiederci in quale parte del mondo portavano. Bello, tanto bello. Tutti abbiamo dei ricordi del genere. Enrico, ti va di passare al tema filo conduttore del giorno? No, perché ho anche una musica per te. Ti va? Notti d'estate. Notti, giusto? D'estate. Sì. Io ti introduco il tema così. Per un rockettaro come Enrico Pagliarini ci volevano i Rolling Stones, Let's Spend the Night Together. D'estate, qual è il problema? Ma sì, passiamo la notte insieme, sì, ma che caldo. Allora, cosa possiamo fare, Enrico? Come possiamo risolvere uno dei due problemi delle notti d'estate? Uno sono le zanzare, e vabbè, l'altro però, che caldo. Cosa facciamo, Enrico? Allora, per le zanzare il mondo della tecnologia non ha ancora ai noi non nulla. È ancora abbastanza progredito? Purtroppo no. Io spero che qualcuno riesca a creare, anche proprio perché esprimerebbero la cattiveria dell'uomo nei confronti della zanzara, perché allora dovrebbero inventare dei cannoni laser, no, che proprio polverizzano la zanzara. Vabbè, incredibile. A bassissima potenza, che distruggono la zanzara ma non fanno eventualmente nulla all'uomo. Ma penso che se ci fosse una gara, allora, sapete che uno dei grandi motori della tecnologia sono i militari, soprattutto negli Stati Uniti. I militari fanno delle gare, mettono a disposizione un sacco di soldi e fanno dei concorsi e dicono: chi riesce a inventare questa cosa prende questo premio. Non penso che i militari siano interessati alle zanzare, ma se lo fossero avrebbero già inventato sicuramente un sistema per battere le zanzare. Invece, allora, uno degli elettrodomestici che si è diffuso di più negli ultimi anni sono i condizionatori di ogni genere. Che cosa sta succedendo nel mondo della tecnologia, in quell'ambito che chiamiamo smart? Dopo lo smartphone sono nate un sacco di altre cose smart: lo smart TV, quindi il televisore smart, la smart home, quindi la casa intelligente con un sacco di cose. Allora, nell'ambito di questo mega trend, possiamo chiamarlo, della casa intelligente, ci sono dei piccoli apparecchi molto divertenti, molto semplici, che si possono applicare sul condizionatore. C'è collegato a questo apparecchio una base, chiamiamola così, che poi si connette all'hub wifi di casa, e il risultato finale è che noi possiamo pilotare il condizionatore con il nostro smartphone. E a questo punto uno dice: ma per quale motivo? Se sono fuori casa, ci sono arrivata. Ah! Esatto, se sei fuori casa, mezz'ora prima potresti accendere il condizionatore. I condizionatori più nuovi non in tutti i casi, diciamo le fasce medio-alte di questi prodotti, hanno già il wifi integrato, quindi molti produttori di condizionatori hanno poi sviluppato l'applicazione, e con l'applicazione si possono fare queste cose. Si può, anche controllare il profilo di consumo. Uno dopo un mese dice: quanto ho consumato, in quali giorni ho consumato di più, può fare cose del genere. Però probabilmente in questa prima fase, perché stiamo parlando di un mondo che sta nascendo in questi anni, in questa prima fase, prima che tutti i vari strumenti, i vari oggetti della casa possano essere connessi l'uno con l'altro in modo facile e molto veloce, sicuramente il telecomando in remoto è molto utile. Cioè, appunto, uno se sta arrivando a casa, ci sono anche dei produttori che lo fanno in automatico, ti geolocalizzano e quando capiscono che sei vicino a casa fanno scattare il condizionatore. Pazzesco, cosa che pazzesco. Si può fare anche se uno riesce a connettere il condizionatore con i termostati smart. Ci sono già alcuni produttori che fanno i termostati smart e fanno questo. Do tre nomi, perché purtroppo velocissimi, abbiamo 30 secondi. Allora, Sensibo, Tado e AmbiClimate, poi li metto magari anche su Twitter, sono tre così li retweetiamo. Startup che fanno questi aggeggi, che costano tra i $150 e $200, non sono economicissimi, però se uno vuole far diventare smart un vecchio condizionatore lo può fare in modo abbastanza semplice. Twittalo, Enrico, così ti retweetiamo subito e gli ascoltatori possono segnarsi i nomi. Al prossimo sabato, Enrico. Ciao. Noi ci ritroviamo tra poco. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Che cos'è l'Olimpo? Perché è importante fare sport? Come ci si prepara a una Olimpiade? Le domande dei più piccoli, le risposte dei più grandi. Sono Federico Taddia e vi aspetto a terra in vista le Olimpiadi spiegate a mio figlio, insieme al filosofo della scienza Telmo Pievani. Il mito, la vittoria, il limite, la corsa, ogni puntata una parola per raccontare lo spirito olimpico. Terra in vista, ogni domenica alle 9. Perché l'importante non è vincere, è ascoltare. Il sabato del villaggio. Seconda ora del sabato del villaggio e sabato pomeriggio in diretta di Radio 24. Abbiamo già parlato di tanti argomenti, abbiamo parlato con il nostro gastronauta, abbiamo parlato di concerti estivi, abbiamo parlato a lungo con Enrico Pagliarini. Il filo conduttore sono le sere d'estate, quindi abbiamo parlato di condizionatori, ma abbiamo parlato anche degli spotters, di quegli appassionati che guardano passare gli aerei o guardano gli aerei che si fermano negli aeroporti, li fotografano, li schedano. Ci hanno spiegato bene in cosa consiste il loro hobby. Ma di cosa parleremo in questa trasmissione? Beh, intanto vi ricordo il numero per i vostri sms: 349-238-6666. Va bene per gli sms, va bene per i WhatsApp. Il mio account di Twitter, @MartaCagnola. C'è anche l'hashtag cancelletto ISDV. Mi sto incartando. Ma di cosa parleremo? Non in questa trasmissione, ma nella seconda ora della nostra trasmissione. Allora, una novità. Entra nella squadra del sabato del villaggio un nuovo amico. Ci parlerà di eventi estivi. Scopriremo più tardi chi è questo nuovo amico che entra nella squadra del sabato del villaggio. La tranquillità delle sere d'estate a leggere? Beh, ne parliamo con la nostra Alessandra Tedesco, che ci consiglia tutti i libri del momento, a partire dal freschissimo premio Strega assegnato questa notte. La televisione, sì, perché la nostra passione per le serie TV non si spegne d'estate, anzi, ma prima sera fa rima, beh, anche se non letteralmente, con cinema. Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Summer days drifting away to the summer nights. Parlando di sere d'estate in questo sabato del villaggio, ma in questo spazio dedicato al cinema forse parliamo di più delle sere d'autunno, d'inverno, perché per il cinema questi sono stati giorni di grandi anteprime, un po' come stiamo parlando in queste settimane dei palinsesti della TV. In un certo senso quasi si presentano i palinsesti dei cinema, possiamo fare un'analogia più o meno del genere. È appena tornato da Riccione, dove c'è stata una manifestazione molto importante, il nostro Franco D'Assisti, e quindi gli chiediamo subito qualche anticipazione sulla prossima stagione cinematografica. Ciao Franco. Ciao Marta. Sì, è stata la carrellata di Cine, che ormai è giunta alla sua ennesima edizione ed è diventata una manifestazione chiave dell'estate cinematografica, perché è il momento in cui gli esercenti del cinema, di tutti i cinema d'Italia, arrivano da tutta Italia a Riccione per vedere i trailer. Abbiamo fatto una buffata di 4 giorni di trailer di tutti i listini di tutte le case di distribuzione del cinema italiano, quindi insomma tanta roba. Quindi insomma film che magari non sono ancora pronti, che saranno pronti tra l'autunno e l'inverno, ma almeno i trailer ci sono, e quindi gli esercenti dei cinema, cioè quelli che materialmente devono scegliere, certo, i film da proiettare, possono già farsi un'idea. Possono farsi un'idea e soprattutto cercano, cioè vengono convinti in maniera anche abbastanza, certo, cioè con delle convention bellissime e tutto, insomma, a programmare poi nel loro cinema quel film, perché è chiaramente di vitale importanza. Poi ci sono compagnie chiaramente che hanno film talmente importanti che si programmano da soli, altre hanno bisogno di sgomitare un pochino. Però è anche un momento per capire che cinema ci aspetta nell'autunno-inverno, fino a Natale, diciamo, e per farsi un'idea di come sta andando un po' in generale il settore. Ed è stato per esempio una edizione che ha messo in luce come questo autunno-inverno sarà sicuramente contrassegnato da due fattori: l'enorme numero di franchise, come vengono dette, cioè di grandi brand, di grandi marchi di film che hanno il loro prequel, sequel, remake, spin-off, insomma si va sul sicuro con poca esatto, fantasia. Sono listini di major che sono composti quasi al 60-70% da questo tipo di cose, no? E poi l'altro è una matrice italiana molto forte, soprattutto nella commedia, chiaramente. Pensa che quest'anno usciranno 4-5 cinepanettoni, film tipicamente di Natale, prima di Natale, che è un po' un suicidio, tanti, perché insomma, chiaramente significa... Non tutti possono andare a vedere tutti. Significa, ecco, frazionare il pubblico, eccetera. Ecco, però sicuramente l'Italia continuerà nel solco di commedia comica, fortemente comica, o commedia d'autore da una parte, e un cinema che riscopre la socialità, i problemi, l'attualità dall'altra. Questi sono un po' così a voler tracciare un po' col righello i primi fil rouge che vengono fuori da Cine. Raccontaci un po' qualche titolo, che cosa dobbiamo aspettarci, almeno di quelli che faranno sicuramente successo, quelli che saranno sulla bocca di tutti. Vabbè, assolutamente. Allora, vado veramente in ordine sparso, però ti dico, due grandi marchi della fantascienza come Star Wars e Star Trek avranno il loro film il prossimo anno, perché Star Wars avrà Rogue One, che è uno spin-off, non è il capitolo 8, diciamo così, della saga, quello arriva l'anno dopo. Ma mentre Star Trek avrà anche nel suo caso un film che racconterà una sorta di prequel della situazione dell'Enterprise. Penso al remake di Ben-Hur, arriverà nelle sale italiane. Il remake di Ben-Hur, tra l'altro, produzione totalmente italiana, produzione economica e artistica americana, ma tutto prodotto a Cinecittà e a Matera. E abbiamo visto i primi 20 minuti di questo film ed è stata una cosa pazzesca, perché la famosa scena delle bighe, siccome era già cinema spettacolare allora, non soffre di un tradimento particolare, anzi viene esaltata dagli effetti speciali di cui possiamo godere oggi. E poi, insomma, si comincia subito il 14 settembre con Dory, che ha già fatto strage. Film d'animazione Disney, è anche questo uno spin-off di Nemo, certo. Ma la pesciolina Dory, ricorderete, la smemorata, ha un film tutto suo, che in America ha già fatto record assoluto per un film di animazione nel primo weekend e nella prima settimana. Quindi insomma, casa Disney, come fa cade in piedi. C'è anche Oceania, che sarà invece il film di Natale della Pixar, tutto agli antipodi. E poi dicevo film italiani, sono molto curioso di vedere il nuovo film di Michele Placido, che si intitola 7 minuti, ed è una storia che ha avuto una pièce teatrale, tra l'altro, in scena al piccolo, con un numero enorme di repliche durante la scorsa stagione. Michele Placido la volge tutta al femminile, ed è la storia di 11 delegate di un'azienda, alle quali viene chiesto un sacrificio apparentemente piccolo: sacrificare i 7 minuti di pausa tra un turno e l'altro pur di salvare il posto di lavoro. Quindi non diminuire stipendi o cose drastiche. Certo. 7 minuti non sono niente, però sono un altro passo verso una diminuzione costante dei diritti, un ridimensionamento delle libertà, dei tempi. Certo. E questo lo fa Michele Placido, lo fa dire intelligentemente a delle donne, che sono poi quelle che hanno anche tutto un altro compito sociale che le aspetta. Certo. È un film che voglio vedere, e così come tante commedie. Tra i cinepanettoni ci sarà Natale a Londra, dove si va, perché ogni anno c'è una meta. Natale a Londra, Natale bene. A Londra, in tempi di Brexit direi che non poteva, sì? Anche loro il film ha pensato prima, quindi davvero fantastico. Però c'è per esempio anche un film con Diego Abatantuono, molto molto divertente, che arriva. Insomma, il cinema italiano cerca di muoversi nei territori che conosce meglio, quelli del cinema d'autore un po' più impegnato e quelli invece di una commedia che negli ultimi anni si è saputa fare anche d'autore, ma che ha sempre anche il versante comico spinto. Certo. che frutta sempre molto al botteghino. Immagino che qualcosa da Riccione sarà anche nella Rosa Purpurea, quindi l'appuntamento con te, Franco, è dopo il GR delle 18? Assolutamente, siamo in onda dalle 18 con i film di questa settimana in sala, che sono molto interessanti, tra l'altro con l'intervista dall'Ortigia Film Festival, ma come dicevi giustamente, da Riccione, con un reportage curato dalla nostra Chiara Pizzimenti sui Ciak d'Oro, che sono stati assegnati lì a Riccione e che sono stati tutti al femminile quest'anno. Coppia di comedian dell'anno, assolutamente, Valeria Bruni Tedeschi, Michaela Ramazzotti per La Pazza Gioia. Certo. Però i premi alle attrici sono stati tanti e ne parleremo con tutte le voci durante la Rosa Purpurea. Quindi a più tardi, Franco. Grazie. Il sabato del villaggio. E al sabato del villaggio è il momento di Alessandra Tedesco. Mi ha detto che parliamo di streghe, e quindi parliamo della strega Samantha. Vita da strega, quanto era bello, mi piaceva un sacco questo telefilm. Parliamo sicuramente di Vita da strega. Ah no, parliamo del premio Strega, mi accenno Alessandra. Il premio Strega che è stato attribuito ieri sera, sono molto contenta perché è andato al libro che io ho più amato, anche se confesso non l'ho ancora finito. Quindi saluto, do il benvenuto ad Alessandra Tedesco e finalmente riparliamo di questo straordinario vincitore del premio Strega. Alessandra, ciao! Ebbene sì, torniamo a parlare del famoso tomo di 1300 pagine. Nel bene e nel male, insomma, è il libro del periodo, non se ne può... Non puoi sfuggire a questa cosa. La scuola cattolica, la che scuola bel cattolica libro. Un brutto titolo, ma un libro molto bello. Scusate, sì, devo dire forse un titolo un po' fuorviante. Ma sì, è un titolo moscio, diciamo la verità. Però il libro vale veramente la pena. Allora, ricordiamo, l'ha scritto Edoardo Albinati, pubblicato da Rizzoli. Ripetiamo sempre, 1300 pagine, quindi è un bel tomone. Ma non abbiate paura, perché lo si può leggere a pezzettini. Esatto, io lo sto leggendo, io ogni volta dico, confesso, sono arrivata, ma perché non è necessario, anzi forse non è nemmeno utile leggerlo tutto insieme, perché sono talmente tante riflessioni che... È vero, concordi è vero. Con è me. È come se fosse divisa in parti. Allora, partiamo appunto dal principio. Diciamo, l'escamotage letterario, la ragione per cui Albinati ha scritto questo, non posso neanche definirlo romanzo perché è veramente un mix, questo libro, e il fatto che lui da ragazzino ha frequentato la stessa scuola cattolica di un quartiere borghese di Roma, il quartiere Trieste, frequentato dai purtroppo famosi e celebri autori del Delitto del Circeo. Sì. Delitto che era venuto a metà degli anni 70, ne avevamo già parlato altre volte anche qui al Sabato del Villaggio, sempre a proposito del romanzo La scuola cattolica. A distanza di 40 anni quindi Albinati ripercorre in queste 1300 pagine le atmosfere che portarono a quell'omicidio, senza però naturalmente né giustificarlo né cerca di identificarne le cause naturalmente, però fa una riflessione da scrittore qual è, quindi da narratore qual è, su qual era l'ambiente, perché lui l'ha vissuto proprio in prima persona. E allora, perché dicevamo si può leggere a pezzetti? Perché c'è tutta una parte molto bella, secondo me la più intensa, dove ci sono le riflessioni filosofiche, psicologiche, sociali, anche sociologiche, su com'era l'educazione del maschio negli anni 70, cioè il fatto che il maschio non potesse esprimere sentimenti in pubblico perché altrimenti veniva tacciato di omosessualità e quindi insultato e messo da parte dagli altri compagni. Non poteva mostrare tenerezza nei confronti degli altri maschi. Insomma, tutta una serie di ragioni che ci fanno veramente capire come quell'educazione, che in parte resiste tuttora, determina profondamente le cause del rapporto maschio-femmina. Lo definisco proprio così, maschio-femmina, perché non è solo uomo-donna, ma è proprio dal rapporto maschio-femmina che parte tutto. Il tema di questa puntata è essere d'estate e io devo dire un pezzettino a sera me lo concedo. Beh, l'estate è lunga, quanto dura? 3 mesi l'estate? Sì, non è un volume da valigia se andate in aereo, ad esempio. No, lo potete scaricare naturalmente sui vostri e-reader. Io vi dico solo che Albinati ci ha messo 9 anni per scriverlo, quindi noi ci possiamo mettere anche 9 settimane o 9 mesi per leggerlo. Non ci sono problemi da questo punto di vista. Lui è consapevole dell'impegno anche che chiede al lettore. Quindi io lo consiglio veramente a tutti quelli che hanno voglia veramente di riflettere su questo tema uomo-donna, al di là del Delitto del Circeo, ma capire veramente com'era poi l'educazione del maschio negli anni 70 e cercare di capire se è anche un po' cambiata o no. Premio Strega non solo italiano, scopro l'esistenza di un premio Strega europeo? Sì, esiste da 3 anni, praticamente viene organizzato dal premio Strega italiano, insomma, in collaborazione con la rappresentanza italiana della Commissione europea. L'obiettivo naturalmente è far conoscere, soprattutto in Italia, autori che negli altri paesi europei hanno un certo successo, ma magari in Italia non sono ancora molto conosciuti, però sono autori veramente di punta, chiamiamoli certo, così. Certo. La vincitrice di quest'anno è stata una scrittrice che io amo alla follia, posso fare questa dichiarazione d'amore proprio? Sono contenta. Così, è una francese, si chiama Annie Ernaux, lei è in avanti con gli anni, avrà una 70 anni, è una donna veramente strepitosa e il libro per il quale hanno voluto premiarla si intitola appunto Gli anni ed è tradotto in Italia come tutti gli altri romanzi di Annie Ernaux da Lorma Editore. Gli anni, io l'ho letto qualche anno fa appunto, quando era uscito, è un libro veramente, come dire, uno zibaldone forse, non lo so, perché la caratteristica di Annie Ernaux è quella di raccontare sempre storie molto personali intrecciandole alla storia nazionale del suo paese, la Francia. Gli anni e la sua storia da quando era bambina fino, diciamo, ai giorni nostri, quindi si parte da circa 70 anni fa, dalla guerra, dal dopoguerra, fino all'11 settembre. E la caratteristica di questo libro è che lei parla di vari periodi, come non so, il 68, la rivoluzione, il femminismo, sempre descrivendo delle foto. Infatti all'inizio del romanzo Gli anni tu rimani un po' spiazzato, le prime 20 pagine non capisci dove sei, perché lei in realtà sta descrivendo delle foto che guarda e che le ricordano determinati periodi. Quindi istruzioni per l'uso, istruzioni per chi volesse per leggere Gli anni, non spaventatevi alle prime pagine. No, io le avrei tagliate le prime 20 pagine, giuro, okay. Ne ho parlato anche con altri scrittori, quindi voglio dire decisamente più autorevoli di me, e sono d'accordo, non farò i nomi sul fatto che le prime 20 pagine, insomma, avremmo potuto farne a meno. Poi si entra in questo romanzo Gli anni, che veramente ti trascina su tutta la storia della Francia, che poi è un po' anche la storia dell'Italia, come dicevamo prima, la scuola cattolica, cioè sono quelle cose, quelle vicende, quegli episodi di storia comune che si riflettono nella storia personale e viceversa. Ne abbiamo parlato in varie occasioni nelle varie settimane, nelle varie puntate del Sabato del Villaggio. Tanti scrittori hanno parlato della storia recente. Sì, sì, bello, sì, mi si piace... mescola la famosa frase un po' banale, la storia personale con la storia con la S maiuscola, mettiamola vero, così. Vero. E di Annie Ernaux vi consiglio anche due altri romanzi. Questi sono, mentre Gli anni è più corposo, gli altri non sono neanche 100 pagine, quindi si leggono veramente in una sera d'estate. E sono Il posto, dove racconta la storia di suo padre, il conflitto generazionale, ma soprattutto il conflitto di classe fra un genitore che era, diciamo, di umili origini, e lei, figlia, che invece aveva studiato, iniziava a frequentare le persone della borghesia, e quindi a un certo punto si è realizzata una frattura, un'incomprensione fra i due. E l'ultimo, che è stato pubblicato in Italia, L'altra figlia, tosto, è tostissimo. Sono, guarda, ti dico subito quante pagine, veramente in una sera, 81 pagine. Una sera una bambina ascolta i genitori, che non si accorgono che lei sta ascoltando, dire che prima di avere lei avevano avuto un'altra bambina che però era morta. Questa consapevolezza cambierà per sempre la vita di questa bambina. Devo dire che sono anche dei begli oggetti da regalare, sono storie più o meno intense. Sai perché lo dico? Perché a me piace molto, quando ho delle persone care che partono per una vacanza, regalare un libro prima della partenza. Guarda, allora, secondo me Annie Ernaux è molto amata dalle donne, soprattutto perché ha questo modo di scrivere, insomma. In realtà è una scrittura molto pulita, però gli argomenti di cui tratta sono molto empatici. Però io la consiglio sia uomini che donne che hanno voglia veramente di leggere della grande letteratura europea. Bello, mi piace molto. So che invece tanti vogliono leggere gialli e non bastano mai, quindi il consiglio giallo di questa settimana? Guarda, il consiglio giallo, ho scoperto un giallista che mi fa troppo ridere. Ah, allora può piacere anche a me, perché a me il giallo da solo, però se c'è, no, anche qualche... perché a me piace un po' il giallo alla Agatha Christie, l'ispettore Barnaby, sai, la signora in gialla, ecco, lui secondo me le raduna tutte quante. Oh. Allora, l'autore si chiama James Ramsey ed è inglese. Il cognome l'ho già sentito, però. Ed è autore di una saga che è diventata anche serie TV in Italia, trasmessa da Giallo, che si chiama Grantchester. Vi cito due titoli: L'ombra della morte e I pericoli della notte, pubblicati in Italia da Vallardi. Al momento abbiamo solo questi due titoli in italiano. Perché ti dicevo, è un mix fra La signora in giallo e L'ispettore Barnaby? Perché allora l'autore è veramente il figlio dell'arcivescovo di Canterbury. Ah, ecco, infatti il cognome l'avevo già sentito, quindi il figlio dell'arcivescovo di Canterbury. Sì, dell'arcivescovo di un uomo che è stato per un certo periodo arcivescovo di Canterbury, e non c'è nessuna malizia, perché nella religione anglicana si possono sposare e avere figli, quindi lo diciamo subito. E allora, ispirandosi al padre, questo omone alto 2 metri, cicciotto, con gli occhiali, descrivo l'autore, con gli occhiali un po' da nerd, si è inventato questo prete che non ha niente a che vedere con Don Matteo. Don Matteo, il protagonista di questa serie Grantchester è veramente molto simpatico, perché è un prete ambientato negli anni 50, è un prete che si chiama Sidney Chambers. È un po', sai, quegli uomini piacioni, no? Giovane, attraente, scapolo, ama il jazz, insomma, ama giocare a backgammon. Insomma, lui fa l'investigatore a tempo perso, mettiamola così. Cioè cerca di aiutare l'ispettore di questo piccolo paese vicino a Cambridge dove vivono, che è l'ispettore Keating, che invece, insomma, uno burbero, scontroso, eccetera. Invece lui riesce ad arrivare al cuore delle persone e quindi a scoprire i gialli veramente si possono leggere come piccoli racconti, perché all'interno di ogni volume ci sono varie storie, no? E sono veramente gialli all'Agatha Christie, cioè. Belli, gialli sorridenti, mi piacciono. Sì, dai. Non c'era, voglio dire, non c'era la polizia scientifica, quindi era tutta per indagine psicologica sui personaggi, e quindi troviamo la vecchietta che ha ammazzato quell'altro, insomma, veramente. Allora, giallo è giallo, il giallo, diciamo, è giallo, però insomma, col sorriso, ecco, molto leggero. Mi hai annunciato invece che c'è qualcosa che è uscito in queste ore, qualcosa di importante, che fai i compiti questa settimana per noi, che c'è un libro. Ah, come no, certo, 7/7/2016, me ne ero dimenticato. Ha promesso che facevo i compiti, già se ne dimenticato. È una data precisa, 7/7/2016, che è appena passato, il 7 luglio 2016, ieri, sì. Ed è uscito il nuovo romanzo di Antonio Manzini, con protagonista naturalmente Rocco Schiavone. Non ho avuto ancora il tempo di leggerlo, quindi ve ne parlerò la prossima settimana, però ti dico, già ne stanno parlando tutti i fan, ti giuro, li ho visti personalmente nelle librerie entrare il 7 mattina e chiedere: è uscito il 7/7/2016? Mi piacciono i fan che aspettano i libri. Per concludere il nostro appuntamento con i libri del Sabato del Villaggio, come sempre ti chiedo qualcosa per ragazzi, ma già vedo che hai delle belle copertine colorate, sì, in mano. Geronimo Stilton e la sorella Thea Stilton, entrambi pubblicati da PM, hanno a che vedere, hanno a che fare con le Olimpiadi, visto che quest'anno ci saranno le Olimpiadi ad agosto. Regalate ai vostri bambini dai 6 anni in su, secondo me, questi libri, perché servono a fargli capire, magari a fargli conoscere molti sport che normalmente non conoscerebbero. Ed è Lo strano caso dei giochi olimpici, appunto Geronimo Stilton. C'è prima un piccolo giallo come sempre, ma poi la cosa veramente divertente è la guida alle specialità dei giochi. Vengono spiegati i vari giochi, le varie specialità che competono alle Olimpiadi. Poi ci sono anche dei giochini, quindi si può portare anche in spiaggia, insomma potete far divertire i bambini. E si sono inventati un po', ormai da tanti anni, questo personaggio, la sorella di Geronimo, Thea Stilton, in teoria indirizzato più alle ragazze che non ai ragazzi, ma a me non piace mai fare questa differenza di genere, quindi lo consiglio sia a bambini che a bambine. Sognando le Olimpiadi, Thea Stilton e le sue amiche, le sue fide amiche, dovranno aiutare una di loro a prepararsi per le Olimpiadi di Rio. Ma piacciono anche a me, sono così carini. A me piace più di quello di Thea, perché è rosa, a me piace ancora il rosa. Ma vedi questa divisione del rosa e dell'azzurro, io un po' mi viene l'orticaria. Ma io sono una bambina grande, posso. Alessandra, l'ultimo consiglio è quello del cacciatore di libri, quando? Vi svegliate presto, vero, la mattina, col caldo, certo, cerca le zanzare, non avete l'aria condizionata, il sabato mattina alle 6:30 vi cuccate il cacciatore di libri, oppure la sera alle 22. Grazie Alessandra, al prossimo sabato. Baci. Il sabato del villaggio. E rieccoci insieme con il sabato del villaggio. Sicuramente avete seguito tutti RDS Academy, l'avete seguito, il talent, noi l'abbiamo annunciato, avevamo seguito i provini, si è concluso, giovedì sera, il vincitore, vabbè. Ma soprattutto Radio 24 ha deciso un proprio premio speciale, un proprio personale vincitore, che si è aggiudicato una collaborazione. E il premio nel premio è che collabora con me. Cioè, questa è la vera notizia. Ciao Manuel Giancale. Ciao Marta, come stai? Ma io bene, tu? Com'è andata questa avventura? Benissimo, è stata una cosa veramente eccezionale, una grande opportunità che ho avuto e che fortunatamente... Lavorare con me. Cioè, ma questa infatti, è la cosa. Ma io sono onoratissimo. No, guardate. No, ma veramente. Non, adesso io non so se nelle cosa? Materie di studio di RDS Academy c'era la bugia, però ti è venuta bene. Ti no. è venuta bene. No, non c'era, però. Diciamo, no, scherzo. Manuel, di cosa ci parlerai nel sabato del villaggio in questi sabati di luglio? Allora, perché abbiamo creato insieme. Sì. Dobbiamo dirlo. Dobbiamo senza dirlo. Di te, mi hai preso per mano, mi hai portato un po' dappertutto. Diciamolo. Mi hai portato in giro per l'Italia. Certo. E allora abbiamo detto, va bene, facciamo una bella rubrica dedicata agli eventi. Di eventi, perché è estate, perché la gente vuole uscire, la gente vuole scoprire. Ha bisogno di sapere dove andare, cosa anche fare. Anche organizzandosi per tempo. Sì. Noi diremo un po' di cose dell'ultimo momento, sì, un po' di cose di cui prepararci. Assolutamente sì. Il primo appuntamento... Ecco, dove andiamo? Dove ci porti subito? Nella mia città. A Torino. A Torino. Vabbè, dai, sei di casa. Allora, cosa ci inviti a fare a Torino? Allora, a Torino ci sarà una bellissima, un bellissimo progetto, perché l'ha definito un progetto la nostra Antonella Bentivoglio d'Afflitto, che ascolteremo tra poco, perché è un progetto dedicato a tutti quelli che vogliono mangiare insieme a tante altre persone, mm-hmm, vestiti completamente di bianco. Ah, ho visto le foto delle scorse edizioni, bello, sono bello, bellissime. Lo diciamo un po' prima però della data. Sì, prima del 17 luglio, perché bisogna organizzarsi. Ce lo spiega però la nostra carissima Antonella Bentivoglio d'Afflitto, che abbiamo intervistato proprio oggi pomeriggio. La cena in bianco è un appuntamento che da alcuni anni a Torino è diventato in qualche modo molto grande, perché è una sorta di appuntamento a sorpresa. La tavola è un trionfo di italianità, di socialità, di convivialità e di condivisione, e questo progetto che si riunisce intorno al rispetto di alcuni valori importanti che sono etica, ecologia, educazione, sì, rispetto del territorio, e vogliono far sì che persone sconosciute si ritrovino portando tavoli, sedie, piatti, bicchieri intorno a un tavolo, si conoscano, vivano un momento speciale, perché normalmente non mangiamo in dei luoghi unici, e questo, sì, accade da sud a nord, accomunati da un colore che è il bianco. Sono 2.400 le persone che hanno partecipato alla prima edizione, 9.000 invece nella seconda. Sì. Man mano sai già più o meno adesso? Sono oltre 10.000, uh-huh, quest'anno chiaramente abbiamo spostato un po' più avanti la data, perché a causa di quelli che erano i tempi degli europei, i tempi, sì, delle, sì, elezioni, sì, i tempi di tante altre iniziative in città, obbligavano purtroppo a dover andare avanti un po' più in là, e quindi ci sono tanti che scrivono che hanno dovuto partire per le vacanze, però un giorno a sorpresa deve accadere, e questa era la data, il 17 luglio, in tanti, sì, domenica 17 luglio, normalmente la domenica, perché in genere è la domenica che in Italia si pranza a tavola, come dire, con la famiglia, per cui c'è la scelta anche della domenica, perché è un momento che rappresenta un po' il sedersi a tavola, sì, familiare, diciamo, di ritrovo, sì, con tante persone. Come ci si iscrive alla cena in bianco? Perché ovviamente l'adesione è gratuito, ed è, sì, è totalmente gratuito, sì. L'adesione si può dare sul sito che è www.cenainbiancounconventionaldinner.it, e semplicemente con un click e riempiendo un modulo che si dà un'adesione indicativa, con cui ovviamente noi sappiamo in quanti saremo a tavola e quindi dove potremo andare ad apparecchiare per capire qual è il luogo più adatto, dato che chiaramente essendo in tanti i metri quadri sono tanti. Beh, adesso twittiamo anche l'indirizzo del sito al quale iscriversi, abbiamo qualche tempo per prepararci per questa cena in bianco. Mi è piaciuta molto. Ancora... Su Twitter, cena in bianco to. Ah, cena in bianco, è facile, questo è facilissimo. Lo Manuel, altri eventi che hai scovato per noi? Andiamo in Svizzera. Ah, beh, ci sono anche tanti ascoltatori in Svizzera. Sì, sì, sì, molto ascoltati. Andiamo a prendere un po' di fresco, visto che ormai c'è estate. Cioè, detto sai sinceramente, che non lo so se è fresco in Svizzera. Dipende dalle zone. Dove? Andiamo a Lugano. Dipende. Vabbè, dai, lì più o meno farà freschetto, perché c'è un Long Lake Festival Lugano, mm-hmm, dove ci sono tantissimi eventi, ci sono tantissime cose da vedere, concerti, eccetera, eccetera. Molta cultura. E segnaliamo una cosa dedicata alla famiglia. Si chiama Family Festival. Ci sono alcune cose gratuite, alcune cose che invece sono a pagamento, ma sono 10 franchi svizzeri, quindi circa 10, poco meno 10 euro. Non, sì, è tantissimo. Sì, sì. È per stare insieme, ovviamente, alla propria famiglia, ai bambini, che ma di questi carino, tempi. Sì, beh, sì. Sono ma che carino. Sono sì, dai, spazio anche alle famiglie, ma sì, carino. Allora, nella hall del Palazzo dei Congressi c'è, sì, un villaggio per le famiglie. Ci sono laboratori, ci sono cose dedicate proprio ai bambini, quindi questo è il bello, per questo che volevo segnalarlo, dal 23 giugno al 23 luglio, quindi ci sono ancora pochi giorni per stare insieme, diciamo. Lugano, altre mete da scoprire, magari al mare? Magari al mare? Sì. Ma diciamo che entriamo un po' entriamo nel mood con un sonoro, facciamo ascoltare qualcosa. Marcello, come here, hurry up. Sì, Silvia. Vengo anch'io. Vengo anch'io. Stiamo sbagliando tutto, Silvia, ma chi sei? Listen. Silvia. Del mare, ho riconosciuto l'acqua della fontana di Trevi, però. Posso dire che su questa base però potremmo anche ballare così? No, smettiamo. Così, vabbè, dai, dopo, durante la pausa ci facciamo un... Sì. Allora, era La dolce vita, sì, del 1960, Federico Fellini, ovviamente con Marcello Mastroianni. Marcello, come here! E Anita Ekberg, ovviamente. Come mai Marcello Mastroianni? Perché a Cesena... Ah, quindi vicino al mare, sì. Sì, è aperta dal 24 giugno fino all'11 luglio, quindi manca veramente pochissimo. Per chi fosse questo fine settimana in Romagna, una mostra in omaggio a Marcello Mastroianni, si chiama Ciao Marcello, una mostra fotografica che porta un po' in tutto quello che ha fatto, quindi insomma è una bellissima cosa da andare a vedere, soprattutto per chi vuole tornare un pochettino ai tempi. Bei tempi. Le informazioni su www.comune.cesena.fc.it. Insomma, sul sito del Comune di Cesena. Praticamente sì. Ma il sito del Comune di Cesena. Altri eventi? Abbiamo ancora qualche minuto per una raffica di eventi. Andiamo a Pescara, dove dal 4 luglio al 27 agosto ci sono tantissimi concerti sotto le stelle. Ci sono tanti concerti che arrivano da tutto il mondo, generi musicali che arrivano da tutto il mondo, jazz, colonne sonore, cinema, tango, addirittura qualcosa dall'Argentina, insomma bellissimo da andare a vedere e soprattutto da ascoltare. E poi andiamo all'Ancona Jazz Summer Festival, dove sì, in estate si fa all'aperto, ma in inverno si fa anche in teatri, jazz club, eccetera eccetera, quindi non ci si ferma mai nelle Marche per quanto riguarda la musica. Ci sono tanti eventi che sono sì a pagamento ma altri no, www.anconajazz.com, dove addirittura quest'anno si può ascoltare anche Stefano Bollani, che mancava da tantissimo tempo, forse dalla prima edizione. Sì, dalla prima edizione c'è scritto, sì, dal 2014 se non sbaglio. Qualcosa al sud, c'è Massimo Ranieri in Sardegna, Riola Sardo proprio stasera, quindi già una cosa... Quindi corsa agli ultimi biglietti. Sì, sud isole. E invece in Sicilia c'è David Guetta per i più giovani. Ah, ma per quelli che non l'avessero sentito abbastanza nell'inno degli europei quest'estate. Hai ragione, per chi ancora mancava qualcuno, cioè, ce l'abbiamo noi. Abbiamo ascoltato questo David Guetta. Poi tra l'altro ve lo anticipo, parleremo ancora degli europei dopo, durante il sabato del villaggio, perché è l'argomento di questo periodo. Abbiamo fatto scendere un po' la lacrimuccia, però secondo me vero? Così bene, ci siamo divertiti lo stesso in questi europei. Sì. Manuel, allora noi ci sentiamo tutti i sabati, per tutti i sabati di luglio qui al, sì, sabato del villaggio. Tu continui a fare i compiti, io vedo che hai già, sì, davanti a te un calendario infinito di eventi. Ma perché che stai raccogliendo. L'Italia è piena di eventi, quindi questo è bello. Che meraviglia. Allora, al prossimo sabato con Sabato del Villaggio, anche con Manuel Giancale, e allora presto. Ciao Marta, grazie, ciao a tutti. Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti. Vi presenta Il Sabato del Villaggio. E un po' di leggerezza e un po' di piacevolezza anche nel nostro sabato del villaggio. Gioiamo delle serate estive, che sono un po' il tema di questa puntata, fino alle 17, perché poi avremo anche argomenti più seri, più impegnativi, anche più drammatici in RadioTube. Parleremo di attualità come facciamo ogni sabato in diretta. Dico un po' più di leggerezza all'ascoltatore che si lamenta, dice: ah, queste stronzate come la cena in bianco. Ma dai, ma godiamoci un po' le serate estive, su via, su via, gli eventi estivi sono alcune delle cose più belle che ci possano capitare, come una delle cose più belle che ci può capitare, almeno io sono di questo parere. Quanto è bello passare le serate estive guardandosi delle serie televisive. Allora, un paio di notizie sulle serie TV Flash. Abbiamo parlato qualche settimana fa di The Young Pope, la serie diretta da Paolo Sorrentino, realizzata da Sky insieme a HBO. La premiere sarà alla Mostra del Cinema di Venezia. Sono molto molto curiosa, speriamo ci sia Jude Law, io lo aspetto. E poi, seconda notizia, io già vi avverto, grande polemica, la troverete sui social, la troverete in rete, magari la troverete anche sui giornali. Ieri sera andato in onda How to Get Away with Murder per la prima volta sulla rete generalista, su Rai 2, tagliate delle scene di sesso omosessuale, molte polemiche, chiamato in causa anche il creatore della serie Pete Nowalk, che ha risposto via Twitter. Insomma, è il prossimo argomento di polemica, io ve lo dico, è scoppiato in queste ore, in questi minuti, se ne parlerà tantissimo. Ma io voglio fare anche un salto indietro nel tempo e lo vorrei fare così. Gonna be this way. Your job's a joke, you're broke. Your love life's DOA. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. I'll be there for you. Beh, un brivido di nostalgia per tutti noi che abbiamo amato tantissimo Friends. Bastano due note di questa I'll Be There For You dei The Rembrandts per riportarci a anni passati. Siamo talmente innamorati di Friends che finalmente possiamo dire Friends è tornato. No, non c'è una serie nuova, quella che abbiamo sperato per tanti anni, non c'è il film di Friends che abbiamo agognato a lungo, ma finalmente si può rivedere tutto Friends. Siamo tutti impazziti per questo ritorno e parliamo di questo e di tante altre serie dell'estate. Abbiamo bisogno di un po' di consigli e quindi chiamiamo in causa uno dei nostri più amati esperti di serie TV, giornalista della Stampa, Gianmaria Tamaro. Ciao Gianmaria. Ciao Marta, ciao a tutti. Allora, tu sei più giovane e quindi quando c'era Friends eri più ragazzino, però anche tu te lo stai riguardando tutto intero a maratone, tornato questo Friends ributtato in rete? Io l'ho rivisto. La cosa triste, se si può dire così, è che l'ho già rivisto tutto. Ah, vabbè, vita sociale a pacchi anche tu, molto bene. Sì, proprio quelle serate mondane dell'estate che dicevi tu prima. Comunque, su Netflix, tutto insieme, tanti hanno twittato in questo periodo notti intere a guardarsi le sì, stagioni. Sì, non solo Friends, ma c'è anche una mamma per amica che ti aspettando la nuova stagione che ecco, invece, ecco, però una mamma per amica tornerà, perché Netflix l'ha confermato, arriverà la nuova stagione. Assolutamente sì, e anzi hanno confezionato due spot, uno proprio con Michelle Obama, che ha fatto da testimonial alla serie parlando di libri con Rory, che insomma ha attirato molte molte molte condivisioni sui social, e tutti la stiamo aspettando questa nuova stagione, anche perché è una di quelle serie di cui al momento, quando venne, diciamo così, interrotta la produzione, non se ne sentì tanto la mancanza, nel senso di sì, insomma, è finito, un periodo che va, eccetera. Appena c'è stato questo rumor di una nuova stagione, sono tutti impazziti. Giustamente, tra l'altro. Sì. Gianmaria, che cosa ci consigli? Quali sono invece i tuoi consigli per queste serie d'estate insieme alle serie TV? Allora, io onestamente sono molto contento del fatto che su Sky Atlantic, per esempio, stiano proponendo, forse un po' in ritardo rispetto alla programmazione americana, visto che è già finita, ma c'è la bellissima Billions, che è una delle serie evento poco chiacchierate qui in Italia, ma è davvero meravigliosa, perché ha due interpreti come Paul Giamatti e Damian Lewis, che sono magnifici, straordinari. E sempre su Sky Atlantic c'è l'altra bella serie, che è Silicon Valley, che è una comedy alla sua terza stagione, che migliora stagione dopo stagione, e quindi c'è anche la possibilità di ridere. Su Netflix ce ne sono tantissime. Tra l'altro alcuni ascoltatori scrivono che Friends è sempre stata ripresa anche sulla TV generalista, però c'è da dire che quando te la ritrovi tutta su Netflix, non è che becchi un episodio a caso, te la riguardi proprio tutta. Questa è sì, stata un po' la particolarità. È sempre il discorso della TV lineare o non TV lineare, la possibilità di rivedermi una cosa quando voglio io, la modalità che voglio io, la rende sicuramente più appetibile di aspettare la programmazione o il palinsesto di una rete e vedere insomma quando loro decideranno di fartela vedere. Certo, però ti stavo certo. dicendo, insomma, su Netflix ci sono tantissime possibilità, ci sono tantissime serie, le prossime uscite, c'è Stranger Things che non vedo l'ora davvero di vedere tra la settimana cos'è, prossima. Cos'è? È un diciamo così, un thriller fantascientifico in un certo senso, è tutto molto velato dal mistero ancora, abbiamo visto il trailer, si parla della sparizione di questo bambino, alieni non alieni, tanti argomenti, carne a cuocere, roba che ricorda un po' lo Spielberg degli inizi, quindi anche lo stesso J.J. Abrams con Super 8 per esempio. Ah, bene, bene. Quindi aspettiamo veramente con impazienza. Altro consiglio? Altro consiglio c'è Rick e Morty, che io in tutta onestà mi sento di consigliare, è un cartoon, sembra incredibile ma mi sento di consigliare un cartoon che si trova sempre su Netflix, ma è di una comicità incredibile, nasce come una parodia di Ritorno al Futuro, racconta la storia di questo scienziato di suo nipote, demenziale, ma assolutamente una di quelle serie che mi ha fatto ridere dall'inizio alla fine, non vedo l'ora che esca la seconda stagione. Beh, sono molto contenta, grazie Gianmaria per i tuoi consigli. Il tuo account di Twitter è un po' complesso da dire su, per radio, ci provo. Gian scritto con la J, trattino basso 91, ma se volete io l'ho appena retweetato col mio account chiocciola Marta Cagnola, quindi potete seguire Gianmaria anche perché poi anche su Twitter ci racconta sempre un sacco di cose interessanti sulle serie, cosa che fa sulla stampa, ma anche su il post XL, GQ, ma un sacco di posti. Grazie Gianmaria per i tuoi consigli, alla prossima, grazie mille. Allora, ringraziamo Gianmaria Tammaro, io vi ricordo i vostri messaggi SMS, i vostri WhatsApp 349-238-6666, il numero che sarà attivo anche per il nostro RadioTube perché siamo comunque in diretta fino alle 18. Adesso è il momento di dare la linea al nostro GR24, parleremo credo anche di tennis perché si è concluso Wimbledon femminile, quindi scopriremo tra poco chi ha vinto, lo faremo con il GR24 condotto da Migliorati. Noi ci ritroviamo al termine perché sarà il momento di dare la linea al nostro RadioTube.